12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi proseguiamo la nostra esplorazione del mondo del lavoro all'estero e mentre alcune settimane fa siamo andati oltreoceano alla scoperta del Canada, oggi rimaniamo più vicini e cerchiamo di capire come funzionano le cose in Germania. Da dove iniziare per cercare lavoro in Germania? Ci sono dei particolari requisiti da possedere? Bisogna ottenere dei permessi per lavorare in Germania? Quali sono i settori nei quali c'è più richiesta? Proveremo a dare risposta a tutte queste domande insieme a Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale, che siamo felici di riavere qui a 12 minuti. Iniziando col dare alcune informazioni in generale, in Germania le imprese private sono un settore in continua espansione e danno lavoro ad un alto numero di lavoratori specializzati. Le aziende tedesche sono sempre presenti sul mercato internazionale, con prodotti ad alto livello tecnologico. I settori infatti in espansione sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'informatica. I più importanti settori industriali sono quelli automobilistici, meccanici, chimici ed elettronici. Tra le figure professionali maggiormente richieste ci sono ingegneri, tecnici, artigiani qualificati, specialisti dell'informatica, medici, assistenti domiciliari badanti, personale qualificato per il settore alberghiero, della ristorazione, del settore turistico, addetti al settore ambientale, forestale e giardinaggio. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il bentornato alla nostra ospite Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale. Ciao Sara, grazie per essere di nuovo qui con noi. Ciao, grazie a voi. Sara, la prima volta che sei stata nostra ospite in occasione della puntata dedicata al mondo del lavoro in Canada, ci hai raccontato delle diverse tipologie di permesso che si devono ottenere per poter entrare a lavorare appunto nello Stato canadese. Per poter lavorare in Germania bisogna ottenere dei permessi? Allora no, assolutamente. Allora, per un cittadino italiano e quindi un cittadino europeo, all'interno dell'Unione Europea non c'è la libera circolazione dei lavoratori, quindi non è necessario richiedere dei permessi particolari. Fino a 3 mesi non è nemmeno necessario dichiarare la propria presenza, oltre i 3 mesi di residenza in un paese diverso dal proprio all'interno dell'Unione Europea bisogna poi dichiararsi all'anagrafe, però è molto semplice in realtà poi la procedura. Quindi sicuramente diverso ecco invece per poter entrare in Canada, che era molto più complicato, ci ricordiamo. Sara, un giovane alla ricerca di lavoro che volesse provare ad affacciarsi alle porte della Germania, da dove può cominciare la sua ricerca? Quali sono secondo te i canali da percorrere? Allora, la ricerca di lavoro in Germania è molto simile in realtà a quella in Italia. Sicuramente inizierei da rivolgermi ai servizi pubblici di collocamento. Quindi in Germania chi si trova già lì può rivolgersi all'ente federale del lavoro, che è un po' come il nostro centro per l'impiego, che ha una banca dati a cui ci si può iscrivere e ha poi delle agenzie dislocate sul territorio in cui uno si può recare. Oltre a questo c'è anche un dipartimento internazionale del servizio di collocamento statale che accoglie le domande di lavoro dai giovani provenienti dall'Unione Europea. Altro invece canale molto importante sia per la Germania che in realtà poi un po' per tutta l'Europa è EURES, che è la banca dati dei centri per l'impiego europei, quindi è una banca dati che li mette in collegamento e che rende visibili a tutti i cittadini europei le offerte di lavoro di tutta Europa. E è possibile all'interno di questo portale sia fare una ricerca filtrata per paese e per tipo di mansione, sia inserire il proprio curriculum e renderci visibili a tutti i datori di lavoro europei che passano per i servizi pubblici. Invece poi ci sono le agenzie di collocamento private, quindi le agenzie interinali, dove ovviamente è obbligatoria una buona conoscenza del tedesco. Un elenco completo di queste agenzie si può trovare al sito www.bolognazaarancona.de. Ovviamente è sempre bene poi consultare i portali e le banche dati online di ricerca di lavoro all'estero, i quotidiani se si è in loco o le riviste online se invece si è fuori dal paese. Le fiere del lavoro sono anche qui per il reclutamento del personale, sono uno strumento importante, perché all'interno di queste fiere c'è la presenza di molte aziende che in quelle occasioni normalmente fanno reclutamento. Due grosse fiere importanti sono Absolventen Congress e Connecticum, e nei siti di queste fiere è possibile capire che tipo di aziende ci saranno e quindi capire se è importante poi partecipare o meno. Un altro canale sono sicuramente le camere di commercio, che dove si può reperire una lista degli associati per una ricerca mirata, quindi per settore che ci interessa, e il sito di riferimento è www.anconahotelk.de. E infine, se posso dare un breve consiglio per chi sta cercando lavoro, è il fatto di crearsi una rete di contatti. Cioè, diciamo che ultimamente la ricerca di lavoro funziona molto così, per cui entrare in diretto contatto con il nostro interlocutore ci facilita poi la possibilità in futuro di avere un colloquio. Crearsi la rete di contatti è fondamentale, e a questo servono poi anche i social network dedicati come Facebook e LinkedIn. Assolutamente. Sara, prima di continuare la nostra scoperta del mercato del lavoro tedesco, ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi appunto ritorniamo qui in studio insieme. Ok, grazie. If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow, drowning in my tears. You can go swimming when you're here. Be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is, darling. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the ocean, so deep and wide. I'll get out the tears whenever you cry. I'll be the breeze after the storm is gone, to dry your eyes and love you warm. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, oggi parliamo del mondo del lavoro in Germania e insieme a Sara Tognon, esperta di mobilità internazionale che è tornata a trovarci, stiamo cercando di capire quali sono le possibilità per un giovane di trovare un'occupazione appunto nello Stato tedesco. Sara, nella prima parte della nostra puntata ci hai raccontato quali sono i canali da battere, diciamo, per la ricerca del lavoro, dai servizi per l'impiego pubblici, alle agenzie private, al web, alle fiere. ma quali sono i settori in cui c'è maggior possibilità per un giovane di trovare un impiego e quali sono i canali per accedervi? Allora, per un giovane che è alle prime esperienze di lavoro all'estero e magari non c'è una grossissima esperienza pregressa professionale, e i lavori ovviamente sono i lavori stagionali, temporanei, e la cosa importante è organizzarsi in tempo, quindi ovviamente cercare, se la stagione estiva, cominciare a cercare nei primi mesi dell'anno. Sicuramente c'è molta possibilità di impiego nel settore agricolo, quindi nelle fattorie, negli agriturismi, per la cura degli animali o nell'assistenza e l'accoglienza delle famiglie che vi soggiornano. Per quanto riguarda il settore alberghiero, vorrei fare una precisazione, nel senso che in Germania è richiesta una esperienza, spesso un titolo di studio inerente e una discreta conoscenza della lingua tedesca, quindi ci si può improvvisare per fare il lavapiatti, mentre per le mansioni un po' più qualificate come chef, camerieri e personale di reception ovviamente ci vogliono dei requisiti. In Germania sono molto diffusi i centri di vacanza e di soggiorno e che quindi impiegano nel settore educativo, perché lavorano con bambini e ragazzi e normalmente nei periodi ovviamente estivi e invernali. I parchi di divertimento, anche i parchi a tema, impiegano molto personale, e anche qui poi ovviamente dipende se siamo alla ricerca di un lavoro qualificato oppure di una mansione un po' più accessibile a tutti. Il settore fluviale ovviamente la Germania ha una buona rete di navigazione interna che offre molte crociere poi per i turisti e impiega all'interno di queste crociere cuochi, lavapiatti, baristi, camerieri, guide per le escursioni, per cui anche qui dipende molto dal profilo. In Germania ci sono moltissime fiere legate ad eventi e quindi ricercano spesso la figura dell'hostess che addetta appunto alla distribuzione del materiale e agli stand. Sara, all'inizio ci dicevi della modalità di ricerca online, dell'esistenza di database in cui poter inserire la propria autocandidatura, quindi il proprio curriculum. A proposito di questo, hai qualche consiglio da dare? Sì, allora, per quanto riguarda il curriculum da presentare a un datore di lavoro tedesco, allora sicuramente abbiamo questo modello che unifica un po' tutta l'Europa, essendo appunto poi la Germania un paese cuore dell'Unione Europea, il curriculum Europass è sicuramente un valido strumento da utilizzare, anche se ha dei piccoli difetti, quindi soprattutto il fatto di essere troppo lungo, per cui riterrei come regola generale di mantenere i contenuti dell'Europass e invece di modificare un po' il modello, di renderlo molto semplice. Cosa fondamentale per un datore straniero, cosa che in Italia non si usa, sono le referenze, quindi mettere sempre dei recapiti di referenza di posti in cui abbiamo lavorato o di nostri docenti, e poi accompagnarlo sempre da una lettera motivazionale, che anche questa meglio sia breve e concisa, ma che spieghi perché sono interessata al lavoro e soprattutto perché voglio trasferirmi in un paese diverso dal mio. Sara, grazie per essere stata ancora nostra ospite e nuovamente grazie per le informazioni, come sempre molto precise ed importanti. Grazie a voi e buon lavoro. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Siamo giunti in chiusura di questa puntata dedicata al mondo del lavoro in Germania e vi ricordo che al sito dell'Informa Giovani, veneziagiovane.info, nella sezione Europa Mondo alla voce Lavoro all'estero, potete scaricare il documento che raccoglie tutte le informazioni di cui abbiamo parlato oggi. Vi ricordo anche la possibilità di contattare EURES, la rete di cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, che offre una serie di riferimenti utili per la ricerca del lavoro nei paesi europei e pubblica offerte di lavoro e impiego anche stagionali. Per la provincia di Venezia potete rivolgervi a Paola Marani all'indirizzo paola.marani@regione.veneto.it. Segnatevi anche il sito www.bza.de, dove si può trovare un elenco completo ed aggiornato delle agenzie di lavoro tedesche. Per quanto riguarda annunci di ricerca personale, vi segnalo il sito www.bild.de, che ricordo è in tedesco. Infine vi segnalo la Fiera del Lavoro per il reclutamento del personale Connecticum, che si svolgerà a Berlino dal 23 al 25 aprile 2013. Tutte le informazioni potete trovarle al sito connecticum.de. E per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana con una puntata tutta tutta dedicata all'esperienza del progetto Leonardo. Bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.